X24, la storia. L'Arabia Saudita è un crocevia decisivo per gli equilibri del mondo. Eppure è anche un enigma, una regione per molti sconosciuta, difficile da decifrare, con la sua dinastia sempre in bilico tra tradizione e innovazione. Con l'embargo petrolifero del 1973, l'Arabia Saudita capisce che l'economia dell'Occidente potrebbe essere nelle sue mani. E questo pone Re Faisal al centro della scena politica internazionale. L'America ha bisogno di annullare al più presto l'embargo. Da Washington, Nixon invia in Arabia Saudita Henry Kissinger, che in quel momento è sia segretario di Stato che consigliere alla sicurezza, per un'urgente missione diplomatica. Nixon, il presidente Nixon, voleva che facessi qualcosa per cancellare l'embargo. Re Faisal, per parte sua, voleva riaprire il processo di pace in Medio Oriente. Il re ci fece capire chiaramente che non avrebbe mai tolto l'embargo fin quando non avesse visto dei progressi nella regione. E ricordo che, essendo io ebreo, c'era anche chi pensava che io fossi il meno adatto per quella missione diplomatica. Quello che Faisal voleva da me era che gli proponessi qualcosa per far avanzare il processo di pace. Alla fine dell'incontro, il re mi disse che l'Arabia Saudita, senza prendere impegni formali, avrebbe fatto tutto ciò che poteva per favorire iniziative di pace. Questo mi fece dire che l'incontro era stato un successo. Kissinger garantì a Faisal che avrebbe dedicato ogni sua energia alla risoluzione del problema palestinese. Ma Kissinger aggiunse anche: «Maestà, non potrò far nulla fin tanto che lei manterrà l'embargo». Su questo punto, sull'embargo, Faisal si fidò della promessa di Kissinger. Faisal si aspettava che Kissinger avrebbe onorato l'impegno preso. E invece questo non avvenne mai. Era Jane Akins, ambasciatore americano in Arabia Saudita. L'amministrazione americana è sotto pressione. L'embargo del greggio mette l'economia a dura prova. Dopo 5 mesi dall'inizio del blocco, Washington capisce che la soluzione diplomatica non porta a niente. A suggerire una via alternativa ci pensa allora il Pentagono con una linea molto dura. A raccontarlo è ancora Herman Hills e poi Kissinger. Kissinger rilasciò un'intervista. Dichiarò che gli Stati Uniti non potevano permettersi di continuare senza rifornimenti di petrolio e che se fosse stato necessario si sarebbero preparati ad invadere militarmente l'Arabia Saudita e ad impossessarsi dei giacimenti petroliferi. Sia io che Schlesinger usammo un linguaggio molto duro. Cercammo in tutti i modi di far capire che, per garantire la sicurezza nazionale, saremmo stati pronti a tutto. Se fossimo stati costretti, ci saremmo procurati il petrolio di cui avevamo bisogno da soli. In un primo momento la dichiarazione di Kissinger viene interpretata solo come un tentativo di intimidire l'Arabia Saudita. Ma il servizio segreto inglese, in un rapporto top secret, avverte: la possibilità di un intervento militare è reale. L'America è pronta ad impossessarsi dei pozzi petroliferi con la forza. I commenti di Schlesinger e Am al-Faisal, nipote del re. Certo, ne avevamo le capacità. Tant'è vero che stavamo preparandoci, se fosse stato necessario, a muovere verso il Golfo Persico. Se fosse giunto l'ordine, saremmo stati pronti a partire. Alle parole di Kissinger, Re Faisal rispose: «Come tutti sanno, noi proveniamo dal deserto. Abbiamo vissuto per secoli di latte di cammello e datteri. Possiamo tornare nel deserto e vivere come facevano i nostri padri». Beh, dopo quelle dichiarazioni, certo non ci aspettavamo un telegramma di congratulazioni da Faisal. I rapporti tra Arabia Saudita e Stati Uniti non sono mai stati così in crisi. E quel che è peggio è che l'embargo complica le cose anche per lo sforzo militare americano in Vietnam. È a questo punto che alcuni funzionari dell'una e dell'altra parte iniziano una serie di colloqui segreti. A raccontarlo per noi è James Schlesinger, all'epoca direttore della CIA. Al Pentagono arrivò un cablogramma dalla Exxon in cui si diceva che l'Aramco stava tagliando i rifornimenti alla sesta flotta nel Mediterraneo e alle altre nostre forze di stanza in Europa. A fornire la maggior parte del petrolio necessario alla marina americana è la saudita Aramco. Ce ne parlano Mike Amin, all'epoca direttore dell'Aramco, e poi il presidente dell'Aramco, Frank Youngers. Non mi resi conto della drammaticità della questione fin quando non ricevetti una chiamata dal vice ministro della difesa Bill Clements. Mike, mi disse, abbiamo un grosso problema, dobbiamo parlartene al più presto. Sta arrivando una macchina a prenderti. Quando arrivò la macchina di servizio, mi portò direttamente al Pentagono, dove trovai il ministro della difesa Schlesinger e Bill Clements. Mi dissero che stavano combattendo contro i comunisti e che quell'embargo stava creando grossi problemi. Allora parlai con i vertici della Aramco, con Youngers, e due di noi furono ricevuti dal re. Dopo che fummo fatti accomodare, arrivò il re. Sembrava molto irritato, si tormentava i peli della barba. Per assurdo, ci sembrò un buon segno. Voglio dire, il fatto che fosse nervoso. Per noi la guerra in Vietnam era un'emergenza nazionale ed aveva la precedenza su tutti gli altri problemi del mondo, inclusa la questione palestinese. Gli americani mettono il re Faisal davanti a una prova durissima, perché la scelta di aiutare le truppe americane attraverso i rifornimenti di petrolio lo mette contro la Lega Araba. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24, stiamo raccontando la storia della dinastia Saud in Arabia Saudita, una storia che si intreccia con la guerra del petrolio che dal 73 dura fino ai nostri giorni. Re Faisal si è convinto a ritirare l'embargo contro gli Stati Uniti, ma questa posizione di compromesso sta per causargli molti problemi. Il re intervenne per calmare le acque, diciamo così, rassicurando il governo americano che i nostri soldati avrebbero ricevuto il petrolio di cui avevano bisogno, anche se ufficialmente c'era sempre l'embargo. Dal punto di vista logistico, la missione top secret per risolvere l'embargo è un incubo. Per aggirare l'embargo dovemmo mettere a punto un modo talmente segreto da ingannare anche quelle stesse persone che lo stavano aggirando. Ci inventammo ogni sorta di trucchetti, ma alla fine il petrolio arrivò dove doveva arrivare. Ed è stata l'ultima volta che ne ho sentito parlare, sia dal re che dal governo degli Stati Uniti. Era Frank Youngers, all'epoca presidente della Aramco. Alla base di questo patto segreto c'è un'identica paura del comunismo. Nel momento di crisi, i due paesi dimostrano di saper trovare soluzioni tali da salvaguardare la loro alleanza strategica. Passata l'emergenza, Re Faisal torna alla quotidianità. Poi, d'improvviso, il passato riemerge in modo drammatico. È il 25 marzo del 1975. È il momento di saldare un vecchio debito. Ce lo raccontano Turki bin Faisal, figlio del re, e Mike Amin, ex direttore responsabile della Aramco. Il re stava ricevendo il ministro del petrolio del Kuwait. A un certo punto entrò nel suo ufficio Faisal bin Musaid, uno dei suoi nipoti. Faisal aveva fatto uccidere suo fratello durante quella rivolta presso l'antenna della televisione. Era un ragazzo un po' squilibrato. Le guardie non lo conoscevano, ma pensarono che facesse parte della delegazione del ministro del Kuwait. Quando il ministro si inchinò in segno di deferenza al re, il giovane tirò fuori la pistola e sparò a Faisal, facendosi scudo del ministro. Ovviamente gli uomini della sicurezza gli saltarono addosso e lo bloccarono, ma ormai era troppo tardi. Quando arrivò in ospedale, il re era già morto. L'assassinio di Re Faisal crea sgomento, anche perché ad ucciderlo è stato un suo parente. Tuttavia, ancora una volta la successione avviene in maniera indolore, perché anche Faisal l'aveva pianificata da tempo. La scelta del successore è un compromesso che nell'immediato futuro metterà al riparo la famiglia da ogni possibile contrasto. Khaled è stato un fedele compagno di Faisal sin dall'epoca della fondazione del regno. Sempre al suo fianco durante le visite all'estero, ha preferito fin qui vivere all'ombra del fratello e rimanere fuori dalla politica. Re Khaled era davvero un uomo affabile. A differenza di Re Faisal prima e Re Fahd più tardi, non si interessò mai particolarmente alla politica. Lui amava parlare del deserto, della caccia. Quando gli portavo dei visitatori, lui voleva sempre parlare dei suoi falchi. In genere non si discuteva mai di politica con Re Khaled. Diceva, di questo parlane con mio fratello Fahd. Per le questioni delicate o importanti ci rivolgevamo sempre al principe ereditario. Era James Craig, ambasciatore inglese in Arabia Saudita. I primi anni del regno di Khaled scorrono tranquilli. Tutti i ministeri più importanti sono occupati da principi di casa Saud. L'industria del petrolio è florida e in crescita costante. La monarchia non deve più dedicarsi alle finanze in crisi e può rivolgere la sua attenzione anche ai progetti più eccentrici. L'orizzonte sembra sgombro da ogni nuvola. L'unico problema, semmai, è come spendere i soldi. Ascoltiamo il giornalista Jane Buncan e Hisham Nazer, ministro del petrolio in Arabia Saudita. In quegli anni l'Arabia Saudita è stato l'unico paese ad avere una forte crescita economica. Se un imprenditore occidentale voleva lanciarsi nel mercato, doveva guardare a quel paese. Prima o poi tutti arrivavano in Arabia Saudita alla disperata ricerca di una fetta di mercato. La questione era, importiamo forza lavoro dall'estero o aspettiamo di addestrare i nostri sudditi in modo che siano essi stessi a portare avanti i progetti? Personalmente trovavo più conveniente importare forza lavoro, senza perdere altro tempo. E così l'Arabia Saudita iniziò ad importare forza lavoro. I sauditi non lavoravano molto perché il grosso del lavoro veniva svolto da immigrati. Ancora oggi la popolazione dell'Arabia Saudita, che è di 16 milioni di abitanti, è composta per un buon 40% di immigrati. Quando venne in visita la regina Elisabetta, disse che non aveva mai visto tante gru in tutta la sua vita. Con il boom economico in Arabia Saudita arriva anche una buona dose di cultura occidentale e in un paese in cui circa il 70% della popolazione è estremamente conservatore, se non fondamentalista, questo processo non può essere indolore. Così Am al-Faisal, nipote di Re Faisal. L'occupazione della moschea alla Mecca nel 1979 fu forse il primo segnale da cui si capì che l'intera società saudita diceva: «Ehi, basta, stiamo andando troppo veloce, è meglio rallentare». Secondo il calendario arabo era il primo giorno dell'anno. L'imam che presiedeva alla preghiera prese il microfono per dare inizio all'orazione dell'alba, ma fu strattonato e gli fu tolto il microfono. Qualcuno prese il microfono nella moschea e annunciò al resto del mondo che era giunto il Messia e che tutti dovevano radunarsi per affermare la loro sottomissione a questo nuovo Messia. Centinaia di estremismi si barricano all'interno della moschea. Il paese è sgomento. Ascoltiamo il giornalista Khaled Al-Malena e Turki bin Faisal, figlio del re. Eravamo a circa 500 metri dalla rampa. Vedemmo che all'interno alcuni venivano colpiti. Sembrava di essere in un film. In tutti i minareti si vedevano delle persone intente a sparare. Il fatto è che per noi si trattava del luogo più sacro del mondo. E sparare in un luogo simile, con dei cannoni, delle mitragliatrici, è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Una bestemmia contro la sacralità di quel posto. Ancora una volta sono gli ulema, il clero musulmano, a venire in soccorso alla famiglia reale saudita. Sulla base di alcuni versi del Corano, secondo cui la risposta violenta della monarchia ai facinorosi barricati nella moschea è da considerarsi legittima, gli ulema emettono una fatwa. Così Turki Ben Faisal, figlio di Re Faisal, e il giornalista James Booker. Secondo gli ulema, quelle persone, per aver profanato la moschea, dovevano essere considerate come degli apostati. Dunque, era giusto intraprendere tutte le iniziative possibili per fermarli e tirarli fuori dal luogo sacro, compreso l'utilizzo di armi. All'interno della moschea, intanto, infuria la battaglia. Il gruppo di estremisti resiste per 18 giorni. La famiglia reale, che sembra intrappolata in una situazione senza via d'uscita, decide allora di cercare all'estero degli esperti militari. I più indicati per questo tipo di missione risultano gli uomini dei servizi segreti francesi. Fu il servizio segreto da me presieduto a chiamare i colleghi francesi. Parlai personalmente con il conte de Maranche, che all'epoca era il direttore dell'intelligence francese. Gli dissi: abbiamo bisogno di attrezzature, di gas, di personale che possa addestrare i nostri uomini. De Maranche accettò e inviò degli uomini che addestrarono i nostri all'uso del gas e delle altre attrezzature. Il loro intervento si limitò a questo. La questione dell'intervento francese è sempre stata controversa. I sauditi hanno sempre sostenuto che sono stati dei musulmani ad intervenire contro altri musulmani che stavano dissacrando la moschea. Non poteva risultare che a svolgere tale operazione erano stati degli agenti di paesi cristiani. Una volta messa fine all'occupazione, 63 dei rivoltosi sopravvissuti vengono immediatamente decapitati. Le autorità definiscono l'episodio una bizzarra aberrazione. La famiglia reale è scossa, ma soprattutto teme che l'assedio della Mecca venga visto come la nascita di un movimento di opposizione violenta. Proprio da questo movimento, alcuni anni più tardi, emergerà la figura di Osama Bin Laden. Youssef Ibrahim, giornalista. La presa della moschea è probabilmente la prima esplosione, il primo segnale di un fondamentalismo musulmano che non vuole più scendere a patti con la modernità, perché la considera una forma di colonialismo culturale, una nuova crociata contro l'Islam. Nel paese la vita riprende come se niente fosse successo. A preoccupare la monarchia e l'opinione pubblica adesso è soprattutto la notizia del rovesciamento dello scià di Persia. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24, stiamo raccontando la storia della Casa Reale Saudita. Gli equilibri mediorientali sono scossi dal rovesciamento dello Shah in Iran. Il nuovo governo iraniano, sotto la guida dell'Ayatollah Khomeini, non perde occasione di denunciare l'empia alleanza delle corrotte monarchie islamiche con gli infedeli. È una vera e propria sfida alla casa di Saud. Così l'ambasciatore americano in Arabia Saudita, Chase Freeman. I sauditi temevano che anche da loro sarebbe potuta accadere la stessa cosa, cioè che la famiglia reale venisse deposta dalle autorità religiose. La monarchia reagì ricorrendo alla moderna tecnologia. non per ammorbidire le tradizioni più salde dell'Arabia Saudita, quanto piuttosto per rinforzarle. Faccio un esempio. La presenza delle donne all'università venne monitorata da un sistema a circuito chiuso. E la Mutawa, la polizia religiosa, cominciò a sorvegliare i centri commerciali utilizzando telecamere e computer per registrare tutto e passarlo al setaccio del controllo religioso. 24 dicembre 1979, l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. Un mese prima, gli studenti iraniani hanno preso in ostaggio il personale dell'ambasciata americana a Teheran. In una regione che è cambiata per sempre, il ruolo dell'Arabia Saudita diviene ancora più cruciale. Per tutti gli anni Ottanta, il Regno Saudita mette le proprie riserve petrolifere al servizio della Guerra Fredda. Con il supporto logistico degli Stati Uniti, migliaia di giovani sauditi sono inviati a combattere a fianco dei mujahideen in Afghanistan. Così la storica Madawi al-Rashid. Il sistema educativo religioso saudita e le università cominciarono a sfornare masse di diplomati o laureati preparatissimi in materia di teologia islamica, ma del tutto inadatti per il mondo dell'economia e del lavoro in genere. La guerra in Afghanistan fornì un'opportunità per utilizzare questi giovani. Fu un'operazione incoraggiata dal governo, che la riteneva un modo per le tensioni interne. Purtroppo però nessuno ebbe la lungimiranza di capire che proprio queste misure, in seguito, avrebbero innescato una nuova crisi. Per quasi 10 anni migliaia di giovani sauditi si affiancano ai loro fratelli di fede afghani per combattere i russi. Tra loro il leader è un giovane di nome Osama Bin Laden. Il 13 giugno del 1982, dopo aver tenuto le redini dello Stato per un decennio, il principe ereditario Fahd diventa il quinto re dell'Arabia Saudita. Dei 45 figli di re Abdul Al-Aziz, Fahd è considerato il vero tecnocrate. Frequentatore abituale dei casinò di mezza Europa, noto per i suoi scandali mondani, in realtà Fahd, anche prima di salire al trono, ha sempre giocato un ruolo di primo piano nel governo, diventando il manovratore occulto dietro ogni trasformazione avvenuta in Arabia Saudita. In Arabia Saudita, grazie al boom petrolifero, la famiglia reale vive in un lusso illimitato, ma la fortuna sta per voltarle le spalle. Il mercato del greggio è in caduta libera. Il sostegno offerto dall'Arabia Saudita all'Iraq di Saddam Hussein costa al paese almeno 50 miliardi di dollari. In tutta la lunga guerra tra Iraq e Iran, Re Fahd è il principale finanziatore alleato di Saddam. Poi, nel 1988, la guerra finisce. Improvvisamente, 2 anni dopo, c'è un nuovo colpo di scena. Ascoltiamo ancora Am al-Faisal, nipote del re. Ero a casa tranquillo, un raro momento di relax. Verso le 3 del pomeriggio squilla il telefono. È mia madre, da Parigi. Mi dice con voce concitata: come va? Io bene, rispondo. Ma tu che cos'hai? Ma come, non hai saputo? No, non so niente. L'Iraq ha appena invaso il Kuwait. Iraq has just invaded Kuwait. All'epoca le TV satellitari non erano così diffuse ed era difficilissimo avere qualsiasi notizia. Sulla nostra televisione poi blackout totale, niente di niente. Lo stesso se accendevi la radio, niente di niente. 3 giorni interi di totale blackout. I carri armati di Saddam si avvicinano anche al confine con l'Arabia Saudita. La famiglia reale sa perfettamente che il suo minuscolo esercito sarebbe praticamente inerme contro le truppe irachene. Nella prima fase dell'invasione, ad offrire il suo aiuto alla casa reale saudita è Osama Bin Laden. Il miliardario Bin Laden ha trascorso i 10 anni precedenti a fianco delle truppe islamiche e contro i russi in Afghanistan. Il crollo del regime sovietico ha lasciato molti giovani combattenti islamici senza una causa da difendere. Bin Laden incontrò alcune autorità saudite e disse loro che avrebbe potuto far intervenire i suoi uomini. i suoi mujahideen dall'Afghanistan e che in questo modo avrebbe potuto cacciare gli iracheni dal Kuwait. I funzionari sauditi gli risposero molto gentilmente che ci avrebbero pensato e che lo avrebbero ricontattato. Gli chiesero però di non contattarli più. La cosa finì lì. In realtà nessuno richiamò mai più Osama. Il regime saudita non può accettare che un privato cittadino si offra come comandante di un proprio esercito. Mentre le truppe irachene sono ormai alle porte, Refad preferisce andare sul sicuro e si rivolge agli alleati americani. Ma quella di Fahd inevitabilmente è una soluzione destinata a creare tensione. Com'è possibile permettere che la difesa di un regno islamico sia affidata a truppe di infedeli? Ancora una volta sono gli ulema a dover risolvere la crisi. Soltanto loro possono dare a Re Fahd il permesso di procedere. Amr al-Faisal, nipote di Re Faisal. Tutto in Arabia Saudita ruota attorno alla religione. Voi occidentali fate fatica a comprenderlo. È inutile cercare di spiegarvelo, non riuscireste mai a comprenderlo. Il fatto è che da noi la religione è la legge. La religione permea ogni aspetto della cultura e fa parte della nostra storia da sempre, è nel nostro DNA. Ecco perché ogni nuova sfida, ogni nuova iniziativa deve prima passare al vaglio dell'autorità islamica. In quel caso, dovevamo capire se era ammissibile che l'Arabia Saudita chiamasse centinaia di migliaia di occidentali sul suolo sacro del nostro paese per combattere contro un altro paese musulmano. Re Fahd si rivolge agli ulema e quelli gli rispondono: se non sei in grado di ottenere un accordo pacifico, devi metterti dalla parte della vittima ed opporti all'aggressore. E anche se ciò dovesse implicare l'intervento di non musulmani, devi andare avanti. Ancora una volta Re Fahd risolve tutto con una fatwa, ma proprio questa fatwa crea moltissimi dissapori interni. L'establishment religioso infatti ne esce ridimensionato, quasi delegittimato, mentre al contrario il provvedimento spalanca le porte al radicalismo islamico. Washington nel frattempo pare preoccuparsi soprattutto di come difendere le province dell'Arabia Saudita, fonti principali e vitali di petrolio. Quando il ministro della difesa americano Dick Cheney arriva in Arabia Saudita, porta con sé le immagini prese dal satellite che mostrano le truppe irachene pronte a varcare il confine saudita. Con Cheney ci recammo al palazzo Al-Salam, dove incontrammo il re, e senza perdere tempo affrontammo la questione. Avevamo deciso che la cosa più semplice sarebbe stata mostrargli le foto. Chiedemmo perciò al generale Schwarzkopf di mostrargliele. E Schwarzkopf praticamente si inginocchiò davanti al trono del re e gliele fece vedere. Restò molto scosso alla vista di quelle foto. Dopo aver ascoltato il discorso di Schwarzkopf e la proposta di intervento, il re disse: «Intervenite». Poi il principe ereditario aggiunse: «Non pensi che prima dovremmo fare delle consultazioni?» Ma Fahd disse: «Non c'è più tempo. Se perdiamo altro tempo finiremo come il Kuwait. E il Kuwait non esiste più». Trovato l'accordo, ha inizio l'operazione Scudo del Deserto. 550.000 soldati americani cominciano ad affluire in Arabia Saudita. Ascoltiamo il giornalista Khaled Al-Mena e la storica Madawi Al-Rashid. Non appena cominciarono ad arrivare i primi soldati americani, subito si cominciò a dire che eravamo invasi dagli infedeli, che dei soldati stranieri stavano profanando il nostro paese, che ci avrebbero costretto a cambiare la nostra religione e il nostro stile di vita. Ci siamo alleati con i nemici di Dio ed abbiamo dimenticato cosa separa la religione pura dall'eresia. Questo è uno dei motivi per cui andremo in rovina. I sauditi contribuiscono alla guerra con circa 17 miliardi di dollari e con il carburante per gli aerei. Ironia della sorte, in quel periodo l'Arabia Saudita diventa il maggiore importatore di greggio del mondo. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Con la guerra in Iraq, gli americani inviano circa 2000 missioni aeree al giorno, il consumo di carburante alle stelle. I sauditi spendono in totale circa 50 miliardi di dollari e alla fine del conflitto si ritrovano pieni di debiti e in crisi economica. 27 febbraio 1991. La prima guerra del Golfo è finita. La vittoria viene celebrata in modo sfarzoso e spettacolare. Ma una volta finiti i festeggiamenti, la famiglia Al Saud deve fare i conti con lo scontento generale. In Arabia Saudita il vero collante sociale è sempre stata la ricchezza. Adesso che la crisi economica si fa sentire, però, il dissenso si trasforma in ribellione. L'opposizione radicale islamica ha poi un altro argomento su cui far leva. 5 anni dopo la prima guerra del Golfo, Saddam Hussein è di nuovo la scusa per introdurre nel suolo saudita migliaia di soldati americani. Osama Bin Laden diventa la voce dei radicali islamici, ma le parole non bastano più. 13 novembre del 95, una bomba esplode nel centro di Riyadh. Poco meno di un anno dopo, un'altra bomba esplode nei pressi di Dahran. Entrambi gli attentati hanno come obiettivo basi militari americane, dietro ad entrambi c'è Osama Bin Laden. Gli attentati di Osama Bin Laden si vanno ad aggiungere alle tensioni crescenti nei rapporti tra americani e sauditi. Se la monarchia saudita vuole mantenere il controllo del regno, le cose devono cambiare anche molto rapidamente. Proprio in questa congiuntura così critica, nel 1995, Re Fahd ha un infarto. La gestione del potere viene affidata ad un suo fratello da parte di padre, il principe Abdullah. 20 gennaio 2000, George W. Bush diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti. Bush vorrebbe rimanere al di fuori del conflitto arabo-israeliano, ma non gli sarà possibile. Non appena insediata la nuova amministrazione Bush, cominciammo a discutere con loro della politica da tenere nell'area. A Washington chiedevamo di intraprendere sforzi per riaprire il processo di pace. Sapevamo quali sarebbero stati i rischi se se ne fossero lavati le mani. Il principe Abdullah ritiene la questione palestinese il problema principale alla base del malcontento in tutta la regione e rende ben chiaro il suo punto di vista al governo americano. Nel febbraio 2001, con l'elezione di Ariel Sharon al primo ministro israeliano, il Medio Oriente esplode. Qualche mese dopo, in piena escalation della violenza in Israele, al presidente Bush fu chiesto un parere sull'azione di Sharon. Dalla sua reazione tutti capirono che Sharon avrebbe avuto mano libera per fare ciò che voleva. Il principe Abdullah è furibondo e chiama immediatamente l'ambasciatore saudita a Washington, ordinandogli di trasmettere un messaggio fermo e deciso all'amministrazione Bush. A quel punto il principe ereditario inviò al presidente un messaggio molto duro. Risulta ormai chiaro che lei ha deciso di sostenere Sharon, senza alcun riguardo per gli interessi dei vostri amici nell'area e per i vostri stessi interessi. L'America è un paese sovrano e voi siete liberi di agire come volete. Da parte nostra, noi dobbiamo tutelare i nostri interessi. Non ci preoccuperemo quindi delle eventuali ripercussioni che le nostre scelte potranno avere su di voi. Il re dell'Arabia Saudita Abdullah è morto giovedì sera, lo ha annunciato la televisione di Stato. Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente. Il rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che abbiamo visto essere la chiave di questa storia della dinastia Saud, è ancora così? È un rapporto chiave? Direi proprio di sì, l'abbiamo visto anche recentemente nel caso del crollo dei prezzi del petrolio, dovuti proprio alla superproduzione saudita e all'opposizione di Riyadh, anche in seno all'OPEC, di tagliare la produzione per tenere bassi i prezzi. Questo è il risultato di un accordo anche con gli americani. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era quello di mettere con le spalle al muro grandi produttori nemici degli Stati Uniti, ma anche degli stessi sauditi, in primo luogo Mosca e poi anche l'Iran. Ma il crollo del prezzo del petrolio che lei ha detto è anche il tentativo di rendere troppo caro il prezzo dello shale gas? Certamente l'Arabia Saudita teme anche la produzione dello shale oil e dello shale gas, cioè del gas e del petrolio ottenuto con la penetrazione, con l'estrazione dalle faglie. Questo è certamente un aspetto, ma attenzione, l'Arabia Saudita è un paese che nel 2015 dovremo monitorare molto attentamente, perché che forse non ha mai avuto tanto potere decisionale come in questo momento. L'Arabia Saudita controlla il mercato globale del petrolio insieme agli americani, non solo perché pompa moltissimo oro nero ogni giorno, ma perché ha anche la possibilità a livello finanziario di assorbire gli shock finanziari che nascono dai prezzi del petrolio più bassi. Quindi hanno imboccato questa strada proprio perché sanno di poterla in qualche modo sostenere e di mettere al tappeto gli altri produttori. Quindi sono diventati più potenti? Paradossalmente sì, lo erano quando il prezzo del petrolio era alto per ovvi motivi, ma lo sono anche oggi che il prezzo del petrolio è basso. Proprio perché l'Arabia Saudita è un paese che può contare su riserve finanziarie che vanno intorno ai 1.000 miliardi di dollari, cioè sono in grado in qualche modo di sostenere qualunque contraccolpo economico. Ma il problema in Arabia Saudita è sempre conciliare interessi economici e vita religiosa? Il problema dell'Arabia Saudita è quella di in qualche modo avviare perlomeno delle moderate riforme che proiettino un po' il paese nel mondo moderno. Ricordiamoci che per esempio il voto delle donne è stato una decisione piuttosto recente, presa proprio nel 2011 dall'attuale sovrano Abdallah, e questo è un paese dove le donne non guidano, questo è un paese dove le minoranze non hanno diritto di cittadinanza e dove la stessa popolazione di 22-23 milioni di persone è divisa tra cittadini di serie A e di serie B, cioè da quelli che sono nati in Arabia Saudita e sono arabi e dalla popolazione che è stata inglobata, costituita in realtà da cittadini di serie B e da molti milioni di lavoratori stranieri. Quindi un paese che in qualche modo potrebbe affrontare anche delle laceranti contraddizioni, come è avvenuto in passato, per esempio con le rivolte delle minoranze sciite. Lei diceva prima che hanno delle responsabilità rispetto a questi gruppi terroristici di cui abbiamo visto purtroppo le conseguenze in questi giorni, è così? Beh, la Saudita ha una caratteristica fondamentale, no? Religiosa, è il faro del mondo musulmano. Il sovrano saudita è il custode dei luoghi sacri dell'Islam, la Mecca e la Medina, e oltretutto la casa dei Saud ha adottato la predicazione di un imam del XVIII secolo, si chiamava al-Wahhab, e questo è il wahhabismo, è una dottrina molto integralista, molto fondamentalista, una dottrina dura che applica la Sharia in maniera molto stretta, e i sauditi in qualche modo hanno sempre sostenuto, appoggiato, in molti casi finanziato i movimenti più fondamentalisti che in qualche modo diffondessero questa versione dell'Islam. Lo scopo era purtroppo molto semplice da dire: tenere lontani da casa i contestatori del loro potere, cioè destabilizzare da un'altra parte per non avere la destabilizzazione in casa propria. In accordo con gli Stati Uniti? Beh, diciamocelo proprio di sì, perché per esempio americani e sauditi sono stati stretti alleati, per esempio durante la guerra dell'Afghanistan negli anni '80, quando si trattava di sconfiggere l'Unione Sovietica, e gli americani e i sauditi fornivano proprio il sostegno economico, finanziario necessario a sfinanziare e a sostenere i gruppi islamici più radicali che poi hanno combattuto contro l'Unione Sovietica e che poi ci siamo ritrovati sotto varie forme successivamente con Osama anche quella dei talebani. Grazie Alberto Negri. Mix 24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9. Un ringraziamento a Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana. Mix 24.